Tengo cotesta casa. Amen. Digrignò furibondo, i traditori alla lanterna. Gli accordi assentirono. Cosa ben triste, ma era destino. Andarsene prima della fine. Grazie, è stato meraviglioso. Dov'è il cappello? Passarle accanto. Posso lasciar qui il Freeman. Lettera ce l'ho. E se fosse lei là? No. Cammina, cammina, cammina. Come Cashel Boyle O'Connor O'Coyle Tisdall Morris Bisdalli Farrell. Cammina. Beh, bisogna che vada. Scappa? Blundarmene. Blum si alzò. Sul fior di segala blu. Blum si alzò. Oh, sapone sembra appiccicaticcio dietro. Devo aver sudato. La musica. Quella lozione, ricordarsene. Beh, arrivederci. I migliori cap, cartoncino dentro, sì. Accanto al sordo Pat sulla soglia, orecchie tese, passò Bloom. Alla caserma Ginevra morì quel giovanotto. A Passage la sua salma fu deposta. Dolor, oh, ehi, Dolores. La voce del dolente cantore chiamava dolorosa preghiera. Presso rosa, presso seno di raso, presso mano carezzevole, presso fondi di bicchiere, presso bottiglie vuote, presso tappi stappati, salutando nell'andarsene, di là da occhi e capelvenere, bronzo e oro pallido in fondo ombra marina, passò Bloom, soave Bloom, mi sento così solo, Bloom. Tic, tic, tic. Pregate per lui, pregava il basso di Dollar. Voi che ascoltate in silenzio, esalate una preghiera, spargete una lacrima, brave persone, brava gente. Egli era il giovane ribelle. Spaventando l'origliante garzone ribelle lustrascarpe, Bloom nell'ingresso dell'Ormond sentì muggire e ruggire «Bravo!» grasse manate sul dorso, trapestare di scarpe, scarpe lustre, non lustrascarpe. Coro generale, richiesta da bere per mandar giù tutto. Meno male che l'ho scampata. Su, Ben, gridò Simon Dedalus. Per Dio, sei sempre in gamba come una volta. Anche di più, disse Tom Jim Kernan. È l'interpretazione più penetrante della ballata, parola mia d'onore. La Blush, disse padre Coli. Ben Dollard, a passo di cacciuccia, spostò la sua massa verso il bar. Violentemente rimpinzato di lodi e tutto rosato, su piedi pesanti, le sue dita gottose schioccanti nacchere in aria. Big Ben a Ben Dollard, Big Ben Ben, Big Ben Ben. Arr. E tutti profondamente commossi. Simon strombettante con passione col suo naso sirena d'allarme, ridendo tutti, lo trascinarono, Ben Dollard, facendogli festa grande. All'aria rubiconda, disse George Lidwell. Miss Deuce si aggiustò la rosa per servire. Ben Macri, disse Mr. Dedalus, battendo sulle grosse scapole di Ben. In gamba come pochi, solo che ha un sacco di tessuto adiposo nascosto sotto la pelle. Rrrrs. Il grasso della morte, Simon, rugliò Ben Dollard. Richie, in disaccordo, solo, sedeva. Goulding, Collis, Ward. Incerto, egli attendeva. Eppure il non pagato Pat. Tic, tic, tic. Miss Mina Kennedy avvicinò le sue labbra all'orecchio del boccale numero uno. Mister Dollard, mormorarono sommesse. Dollard, mormorò boccale. Bock numero uno credeva a Miss Ken quando lei. Che egli era Doll, lei Doll, il Bock. Mormorava che aveva sentito quel nome gli era familiare, cioè aveva sentito nominare Dollard, vero? Sì, Dollard. Sì, dissero più forte le sue labbra. Mister Dollard ha cantato quella canzone meravigliosamente, mormorò Mina. Mister Dollard, e anche l'ultima rosa d'estate era un'adorabile canzone. Mina adorava quella canzone, Boccale adorava la canzone che Mina. È l'ultima rosa d'estate. Dollard, partito Bloom, sentì un vento avventurarglisi dentro. È gassoso il sidro. E in tasa anche. Attendi. Ufficio postale vicino a Reuben J. Uno scellino e 8 pence di troppo. Facciamola finita. Svignarsela per Greek Street. Ah, oh, se non avessi promesso di incontrarlo. Più libero all'aperto. Musica. Agisce sui nervi. Pompa della birra. La mano che dondola la culla governa il Bang Oath che governa il mondo. Lungi, lungi, lungi, lungi. Su per la riva andava Lionel Leopoldo, Harry, il ragazzaccio con la lettera per Medi. Con dolcezze del peccato, con pizzi per Raoul, commetti in che cosa avanti andava Poldi. Tic il cieco camminava ticchettando un tic dopo l'altro lungo il marciapiede, ticchettando di tic in tic. Cowley ci si stordisce, una specie di ubriacatura. Meglio cedere solo a metà, come si fa con una vergine. Per esempio i musicomani, tutti orecchi. Non perdono una semibiscroma, occhi chiusi, seguono il tempo scotendo la testa, un po' tocchi. Non si osa muoversi, severamente proibito pensare. Parlano sempre della loro fissazione, sviolinate sulle note. Comunque un modo di cercare di parlare, spiacevole quando smette, perché non si sa mai esatto. Organo di Gardiner Street, il vecchio Glynn 50 sterline l'anno. Curioso lassù in soffitta, solo con canne e tasti e pedali, seduto tutto il giorno all'organo, borbotta per ore e ore, parlando tra sé e con quell'altro tale che gli tira i mantici. Brontolio rabbioso, poi striduli insulti, voleva dei tamponi o qualcosa nel suo. No, non gridò lei. Poi tutto a un tratto, pian piano, un venticello piccolo, piccolo, un fiato di vento. Un fiato di venticello zufolò, di Bloom nel piccolo. Davvero? Disse Mr. Dedalus, tornando con la pipa in mano. Ero insieme a lui stamane, al funerale del povero Paddy Dignam. Sì, Dio abbia pietà di lui. A proposito, c'è un diapason là sul tic. La signora ha una bella voce. L'aveva almeno, no? Chiese Lidwell. Oh, deve essere l'accordatore, disse Lydia a Simon Lionello, cui apparì. L'ha dimenticato quando è stato qui. Cieco era, disse a George Lidwell, apparso secondo, e suonava in modo così squisito che era un piacere sentirlo. Squisito contrasto. Bronzo Lid, Mina d'Or. Urlate! Urlava Ben Dollard, versando da bere. Sgolatevi! Asta per me, gridò padre Coli. Rrr, sento di aver bisogno di tic, molto, disse Mr. Dedalus, guardando fissamente una sardina decapitata. Nella teca dei panini giaceva su un catafalco di pane un'ultima, una sola sardina dell'estate. Bloom solo. Molto, e seguitava a fissare il registro più basso a preferenza. Tic, tic, tic, Bloom passava davanti a Barry. Oh, se potessi, un momento, se avessi quel toccasan. 24 avvocati tutti in quella casa, li ho contati. Contenzioso. Amate il prossimo vostro. Pile di carta da bollo. I signori Taglia e Borsa hanno la procura generale, Golding, Collis, Ward. Ma, per esempio, quel tale che batte la gran cassa, la sua vocazione, l'orchestrina di Mickey Rooney. Chissà come gli è venuto in mente la prima volta. Seduto a casa sua, dopo una braciola di maiale col cavolo, a cullarselo in poltrona. Prova la sua parte. Pom, poro pom. Che divertimento per la moglie. Pelli d'asino, frustati tutta la vita e battuti dopo morti. Pom, botta. Se Sembra che sia quello che chiamano Yashmak, ossia, voglio dire, Kismet, il fato. Un giovanotto, cieco, con un bastone ticchettante, avanzava, tic tic ticchettando davanti la vetrina di Daly, dove una sirena chioma tutta grondante, ma lui non poteva vedere, tirava boccate da una sirena. Cieco, non poteva. Sirena, la più fresca boccata di tutte. Strumenti, un filo d'erba, conchiglia di mani, poi soffiare. Anche da un pettine e un pezzo di carta velina ne puoi cavar fuori un motivetto. Molly, in maglietta a Lombard Street West, coi capelli giù. Io dico che ogni mestiere si è creato il suo strumento. Non vedi? Il cacciatore col corno. Cock. Ti prudon le. Cloche, sonnella. Il pastore la zampogna. La guardia un fischietto. Chiavi e serrature. Spazzacamino. Sono le 4, tutto va bene. Dormite. Tutto è sciolto ormai. Tamburo? Poropom. Attendi. Lo so. Il banditore, il pignoratore. Long John. Svegliare i morti. Pom. Dignam. Povero piccolo. Nomine domine. Pom. È musica. Voglio dire, si capisce, è tutto. Poro pom pom pom, quello che si chiama da capo. Però ci si sente. Nel marciare, se marciam, su, marciam, pom. Bisogna assolutamente. E se l'avessi fatto a un pranzo? Tutta questione di usanza, lo scià di Persia. Esalate una preghiera, spargete una lacrima. Però deve essere stato di pasta un po' grossa a non vedere che era un capitano della guardia. Imbacuccato. Chissà chi era quel tale vicino alla tomba col Mackintosh Mar. Oh, la puttana del vicolo. Una puttana sciatta con cappello alla marinara di paglia nera a sghimbescio veniva avanti con sguardo invetrato alla luce del giorno lungo il fiume verso Mr. Bloom. Gli apparì tutt'amor? Sì, è così. Mi sento così solo. Notte di pioggia nel vicolo. Corna. A chi prudevan le. Lui l'aveva. Lei lo vide. Non è il suo posteggio questo. Che cosa? Spero che lei. Psst! Me lo fa fare il bucato. Conosceva Molly, ma aveva identificato. Signora grossa con te con un vestito marrone. Ti mette fuori squadra. Quell'appuntamento che avevamo fissato, sapendo bene che mai o quasi mai. Troppo cara, troppo vicino a casa, dolce casa. Mi vede, non crede? È uno spaventapasseri vista di giorno. Faccia come di sego. Accidenti a lei. Beh, deve pur vivere anche lei. Guardiamo qui dentro. Nella vetrina del negozio d'antiquario di Lionel Marks, l'altero Harry Lionello Leopold, il caro Harry Flower, il serioso Mr. Leopold Bloom, considerava candelieri ammaccati, una fisarmonica col soffietto tarlato cadente. Occasione, 6 scellini. Potrei imparare a suonare. Non è cara. Lasciamola passare. Per forza tutto è caro se non se ne ha voglia. Ecco da cosa si vede il buon commerciante. Ti fa comprare quello che lui vuol vendere. Quel tale che mi ha venduto il rasoio svedese con cui mi aveva rasato. Voleva farmi pagare anche la rotatura. Sta passando ora. 6 scellini. Deve essere il sidro o forse il borgogna. Presso bronzo da presso, presso oro da lungi, rintoccavano i loro bicchieri tintinnanti tutti, occhi lustri e baldanzosi, davanti alla tentatrice, ultima rosa d'estate di bronzo, Lidia, semiramide. Prima Lid, De. Cow, Ker, Dol, una quinta, Lidwell, Sim Dedalus, Bob Cowley, Kernan e Big Ben Dollard. Tic! Un giovane entrò nel vestibolo deserto dell'Ormond. Bloom osservava il ritratto di un baldo eroe nella vetrina di Lionel Marks. Le ultime parole di Robert Emmet. Le 7 parole di Cristo in croce. È di Meyerbeer. Uomini leali come voi uomini. Sì, Ben, Alzerete il bicchiere con noi. Lo alzarono. Cin cian. Tac. Un giovane senza vedere era fermo nel vano della porta. Non vedeva bronzo, non vedeva oro. Né Ben, né Bob, né Tom, né Sim, né George, né Bock, né Richie, né Pat. Non vede chi c'è. Toblum, unto Blum, osservava le ultime parole. Piano piano. Quando la mia patria avrà il suo posto tra. Prr, prr. Deve essere il bor. Nazioni della terra. Nessuno dietro. È passata. Allora e non prima di allora. Tram, cram, cram, cram. Bella occas. Eccoci. Crandl, cram, cram. Sono sicuro che è il Borgogna. Sì, uno, due. Il mio epitaffio sia Carà scritto. O. Oh. Finito.